vista lacerante, la luce oscura, la via, la notte mi abbaglia, non c'è sentiero, non c'è via, non c'è speranza, il mondo si è fermato con il mio cuore, nulla si muove, tutto è silente, tutto è silente, tutto è silente, tutto è silente. È distrutta la morte, poi non fa tanta paura la morte, poi non fa tanta paura la morte, non fa tanta paura la morte, e con la morte, solo la morte, quando nasci non inizi a vivere, inizi a morire, inizi a morire. Mi coinvolgere di strani eoni, la morte può morire, e col volgere di strani eoni, la morte può morire, la morte, e con la morte, solo la morte, quando nasci non inizi a vivere, inizi a morire, inizi a morire. Il mondo si è fermato con il mio cuore, nulla si muove, tutto è silente, tutto è silente, tutto è silente, tutto è silente, tutto è silente, tutto è silente, tutto è silente, tutto è silente, tutto è silente, tutto è silente, tutto è silente, tutto.